con me, nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà, e di bontà. C'era una volta una povera vedova che viveva in una casetta in mezzo al bosco con le sue due fanciulle, Bianca Rosa e Rosella. La madre le aveva chiamate così perché erano tanto belle da sembrare due boccioli dei rosai che crescevano davanti alla casa. I rosai erano due, uno con meravigliose rose bianche e uno con bellissime rose rosse. A me piace correre e saltare per i prati, andare a caccia di farfalle e cogliere fiori. Io preferisco stare in casa ad aiutare la mamma nelle faccende e nelle serate d'inverno mi piace leggere un bel libro mentre la mamma lavora di cucito. Una sera d'inverno, in cui fuori nevicava e faceva un gran freddo, mamma e figlie erano chiuse in casa al caldo. È proprio una serataccia, si sta scatenando una bufera di neve. Rosella, spranga bene la porta. E tu, Bianca Rosa, attizza il fuoco e metti a scaldare la teiera. Ci berremo una buona tazza di tè caldo e dolce. Subito, mamma, in pochi minuti l'acqua bollirà. Ed ora, ragazze, venite qui e sedete accanto a me. Vi leggerò una bella novella. Bussano alla porta, chi può essere? Ormai è tardi. Sarà qualche viandante sperduto nella bufera. Presto, Rosella, corri ad aprire. Non dobbiamo avere paura. A quest'ora può essere solo qualcuno che ha bisogno di aiuto. Vado, mamma. Oh, aiuto, mamma! Aiuto, c'è un orso! Un orso enorme! Non abbiate paura, non voglio farvi del male, ve lo assicuro. Signora, i miei rispetti. Signorine, buonasera. Che cosa vuoi? Orso. Fuori fa molto freddo e la neve fiocca. Permettetemi di scaldarmi un poco, gentile signora. Non darò alcun disturbo. Mi metterò in un angolino vicino al fuoco, perché, dico la verità, nonostante la mia pelliccia, ho preso tanto freddo e sono mezzo congelato. Spero di non darvi fastidio. Appena mi sarò scaldato un pochino, me ne andrò subito. Povero orso, vieni avanti, sei molto ben educato e ti ospiteremo volentieri. Bianca Rosa, Rosella, non abbiate paura, non fate quelle facce terrorizzate. Non avete sentito? È un orso di buone maniere. Non ha nessuna intenzione di fare del male. Oh, mamma, certamente, certamente. Buonasera, signor orso, molto piacere. Accomodati pure. Le due sorelle, convinte finalmente che l'orso non aveva cattive intenzioni, gli fecero buona accoglienza. Come sei simpatico, orso! Che ne diresti di giocare un po' con noi? Orso bello, sdraiati sul dorso, così, con le zampe in aria. Ora provo a trascinarti per una zampa, come se tu fossi un carrettino. Oh, oh. Guarda, Rosella, ora gli spolvero la pelliccia con i battipalli. Oh. Lo permetti, orso? Ragazze, basta, ma che cosa fate? Basta, è ora di andare a letto. Lasciate in pace quel povero orso. Gentile signora, grazie della splendida serata. Mi sono ben riscaldato e tolgo il disturbo. Ma neanche per sogno. Povero orso, puoi rimanere finché vuoi. Fuori fa ancora tanto freddo. Sdraiati pure accanto al camino. Passerai qui la notte al calduccio. Ah, buona signora, grazie. Grazie infinite, siete molto gentile. Scesa è la notte sul bosco, la neve turbina ancora, l'orso educato riposa davanti al camino che fuma. Passa l'inverno al calduccio, tutto l'inverno, perché nella foresta gelata l'orso una casa non ha. Ma primavera è arrivata, si sveglia la terra assopita, l'orso educato saluta, ringrazia e sta per andare. Dopo aver passato in quella casa tutto l'inverno, a primavera l'orso volle ritornare nella foresta. Perché te ne vuoi andare, orso? Resta ancora con noi. Mia cara Bianca Rosa, e per me è un grande dispiacere lasciarvi, ma devo tornare nella foresta per custodire i miei tesori. Durante l'inverno, quando il gelo indurisce la terra, i nani, che sono terribili ladri, se ne stanno rintanati nelle loro grotte. Ma ora che il sole di primavera ha riscaldato la terra e l'ha ammorbidita, Essi scavano lunghe gallerie e rubano tutto quello che trovano. Se proprio vuoi andare, ecco, ti apro la porta. Arrivederci e grazie della compagnia. Arrivederci. Ah, mi sono strappato un ciuffo di pelliccia contro la maniglia della porta, ma non è niente. Addio, care fanciulle. Spero di rivedervi presto. Biancarosa, hai visto? Che cosa? L'orso ha lasciato un ciuffo di pelo attaccato alla maniglia della porta e sulla schiena, nel punto in cui il mantello si è strappato, mi è parso di vedere un luccichio d'oro. Strano.